Nella mattinata di oggi, 20 giugno 2023, circa 1.000 agenti della polizia albanese hanno attaccato Ashraf 3, la sede in cui risiedono migliaia di rifugiati politici riconosciuti come tali dal governo albanese, membri della principale resistenza organizzata al fascismo religioso al potere in Iran, membri dell'organizzazione dei Mujahideen del popolo iraniano, che a sua volta fa parte della coalizione del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Durante l'attacco, gli agenti hanno fatto irruzione e hanno spaccato diverse, hanno sfondato diverse porte, hanno spaccato dei computer. Quelli che non sono stati fisicamente danneggiati sono stati portati via e i cittadini residenti, sono stati i residenti del campo, sono stati attaccati con gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Sono oltre 100 le persone che sono rimaste ferite in seguito all'attacco delle forze di polizia albanesi e intossicate dallo spray al peperoncino. Diversi dei residenti sono attualmente ricoverati all'ospedale Madre Teresa di Tirana, dove sono stati trasferiti e dove si trovano tuttora in condizioni critiche. Uno dei residenti del campo, il signor Ali Mustashari, è stato ucciso. Si tratta di un attacco criminale. La resistenza iraniana ha chiesto al governo americano e alle Nazioni Unite, che hanno più e più volte garantito, si sono più e più volte fatti garanti della sicurezza e del benessere dei residenti di Camp Ashraf, di condannare questa condotta criminale e di garantire che questo tipo di condotta illegale, che viola apertamente le convenzioni internazionali e la dichiarazione dei diritti umani, non si ripeta più. L'appello è rivolto chiaramente anche all'Unione Europea, Unione Europea, della quale tra l'altro la Repubblica Albanese vorrebbe diventare membro. La richiesta è di condannare questo attacco barbaro e di chiedere al governo albanese di rispondere, dell'accaduto. Un elemento che non si può omettere è che questi attacchi ricordano molto da vicino gli attacchi che furono portati avanti dal governo iracheno di Maliki contro Camp Ashraf in Iraq tra il 2009 e il 2015, attacchi criminali che furono portati avanti per cercare di eliminare fisicamente la resistenza organizzata iraniana, fallendo, però, come possiamo vedere oggi.